Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, come andiamo? 8 e 18 minuti. Ti ho visto compulsare nervosamente gli acquisti dell'ultima ora del calciomercato, Ah, non lo so, Kalinic forse, poi forse un altro. Vabbè, insomma, io sono convinto che in via Sarpi la stamperia sta funzionando alla grandissima. Gli hanno detto: mettetevi sotto per stampare soldi. Scherzo, battuta. Si scherza, ma insomma. No, scherzo, battuta, dai. Sono suscettibili, poi magari si arrabbia. Ma dai, ma lui non ha, nessuno ha capito che quando il riferimento a tutta la, un tema della campagna elettorale di Berlusconi, lo sai, no? Che la doppia moneta, la moneta alternativa, si riferiva esattamente. Nessuno ha capito che in realtà sta dicendo: stampano i pagherò, i subentranti. Ma comunque ho detto tutto questo. Anche Bernardeschi, vabbè. Sì, Bernardeschi è la Juve. Lo so, Juve, ma io sto parlando sempre della squadra da avere in mente bene per capire gli sviluppi. No, lo sai, esatto. Che con tutto il rispetto. Allora. I santi. Oggi è un santo controriformista di quelli tosti, perché San Lorenzo Brindisi, che tranne i brindisini pochi ricorderanno, però stiamo parlando seconda metà del 500, inizio del 600, francescano, cappuccino, appunto da Brindisi si forma a Venezia, fa una rapida carriera, appunto, di riferimento come vicario dei cappuccini in mezza Italia e anche all'estero, diventa cappellano dell'esercito imperiale contro i turchi nell'Europa centrale, quindi c'è anche questo aspetto controriformista, militante, politico e militare. Poi viene implorato dai nobili napoletani di andare a protestare da re Filippo III di Spagna contro il viceré duca di Osuna. Va lì, tentano di ucciderlo dei sicari, muore probabilmente avvelenato. Insomma, una storia un po', sembra un po' di cappa e spada. La spada non c'è, ma c'è molta cappa e potere. Però è San Lorenzo da Brindisi. A me piace di più Santa Prassede Martire, che insieme a Santa Prudenziana fanno parte della tradizione più antica dei martiri pii romani, con tanto di basilica dedicata a lei, culto antichissimo. Stiamo parlando di persone che militano e organizzano la Chiesa a Roma con i primissimi papi, quindi nel secondo secolo, e muore sotto Antonino Pio. E oggi nella storia moderna, perché in passato c'erano state tante regine, ma insomma la storia moderna è la prima volta nel 1960 una donna che diventa capo di un governo nella modernità, e incredibilmente, o meno, ma è vero, è così, è lo Sri Lanka, quello in cui avviene, si chiamava Sirimavo Bandaranaike, era 1960, quello che non avveniva nei paesi occidentali avviene invece lì. Però ricordiamo anche che ieri abbiamo ricordato, i giorni prima Falcone, poi Borsellino, insomma, nel 1979, ieri a Palermo, ucciso il capo della Mobile, Boris Giuliano. I compleanni, il compleanno di oggi, quello che si pone su tutti, è quello di Beppe Grillo, ma io voglio dire una cosa: ieri abbiamo toppato i 70 anni di uno dei musicisti più straordinari. Oggi va così, di chitarra. Ma Carlos Santana è un pezzo della storia della mia generazione, ma per tutti, un punto di riferimento straordinario. Insieme a Eric Clapton stiamo parlando dei vertici assoluti di come si suona questo strumento. Ma lui è un musicista, figlio di un musicista mariachi, che negli anni 70 fa veramente la storia del rock con i suoi album. Poi lo virano più verso il commerciale, ha un'esperienza anche mistica, e però fa album straordinari. Ancora Supernational è un album straordinario e non ci si può che inchinare. Senti che roba. We'll be right back. voglio no. dire, andiamo così oggi. Ma quando si suol dire, poi tu vedi, lo vedi dal vivo, vedi anche le immagini, ci sono quelli in prima fila che lo guardano con gli occhi. No, sai, quando si suol dire far parlare la chitarra. Altro che. Vabbè, insomma, dobbiamo anche fare una trasmissione. Fare una trasmissione. Capisco che voi vorreste ascoltare. Pensa, lui ha fatto anche una sigla storica in Mediaset. Pensa, sì. Quindi anche a Berlusconi, perché se ne occupava ancora lui. Quindi anche lui si candida con Berlusconi. Chi lo sa, forse è uno di quelli che sta nel listone intermedio di cui oggi abbiamo preso sui giornali. La quarta gamba. Pare che Berlusconi abbia la quarta gamba. Cioè le due gambe, la terza gamba, quindi non c'è ironia. La quarta gamba. E dove? Fermo! Perché? Ci siamo inchiodati con gli occhi sulla terza gamba. Esatto, e infatti l'ha chiamata prudentemente la quarta gamba, che è dove metterebbe tutti quelli che vogliono andare da lui, i centristi, proprio che fremono, sono trattenuti quasi... i morsi, non della fame, i morsi proprio. No, sì, le redini, insomma, i cavalli, redini, ecco, stiamo parlando, esatto. I finimenti dei cavalli. Che vorrebbero correre da Berlusconi, ma lui io me li vedo che nitriscono. pare ce ne siano 25 pronti ad andare con Berlusconi. Lui li tiene lì al Senato, 25 solo al Senato, solo che se vanno tutti da Berlusconi crolla tutto. E quindi lui invece vuole che Gentiloni non è il momento giusto. Sì. Vada avanti fino al momento giusto. Esatto, vedremo. Comunque, caro Oscar, vogliamo tornare sul tema dei pensionati, quelli che vanno all'estero, eccetera, perché ci ha molto incuriosito anche l'interesse dei nostri ascoltatori. Perché Boeri ieri ha detto, l'altro ieri ha detto che è una anomalia, sono alcuni casi di italiani di pagamenti di pensione all'estero, ma si riferiva soprattutto a quelli che hanno 3 anni di contributi, pochi contributi, 4 anni, 5 anni. La prestazione assistenziale, dice, io che faccio? Pago di qua, ma subentro prestazione essenziale che dovrebbero dare quei paesi, per di più consumano fuori dall'Italia. Esatto. Poi scivolevole stavo dicendo. Esatto. E ieri si è rifatto perché per cambiare ha capito, secondo me, ha riparlato degli immigrati invece. Sì. Quindi sai, alterna dichiarazioni politiche. Ha detto che gli immigrati servono. Un miliardo netto. Ha citato dei dati, ha citato dei numeri. No, però voglio dire che tutti i giorni riesca a piazzare comunicazione politica su questo tema. Comunque, quindi Boeri non si riferiva tanto a quegli italiani che legittimamente una volta nell'età della pensione decidono di andare in quei paesi, l'abbiamo raccontato 10 giorni fa, per esempio in Portogallo vanno tantissime perché il Portogallo non chiede un solo euro di tasse per i primi 10 anni se uno si trasferisce lì. Che i paesi giustamente fanno concorrenza fiscale e tentano di attirarli a sé, esatto, per avere anche più potere di consumo, è ovvio. Ma certo, ma c'è anche la Tunisia che chiede se noi facciamo la concorrenza al contrario. Cioè. Cipro chiede il 3%, pensa che mi ha raccontato che c'erano tantissimi ex piloti all'Italia, a Cipro, che chiede il 3%, poi quando hanno scoperto che il Portogallo chiede lo 0, sono andati in Portogallo per risparmiare anche quel 3% di tasse. Ed è tutto legale, tutto legittimo. Tutto legalissimo, io sono a favore della concorrenza fiscale, non sono per... No, stavo un po' sorridendo tra me e me perché non associo effettivamente, e per favore nessuno si offende agli ascoltatori, al pensionato che stenta ad arrivare a fine mese l'idea del pensionato all'Italia. Ecco, non lo associo. Certo. Ecco, no, però ci sono anche, voglio dire, pensionati d'oro, chiamiamoli così. Che a maggior ragione vogliono diventare di platino. Esatto. Però questo ha suscitato anche tra i nostri ascoltatori dei giudizi negativi, anche dei giudizi moralistici, nazionalistici, i pensionati che vanno all'estero, traditori. Per esempio ieri, lo confessiamo nei confronti di un collega che stimiamo tantissimo e che invitiamo spesso, che è Sergio Rizzo del quotidiano La Repubblica, che è con noi. Buongiorno. Ciao Sergio. Ecco, ieri buongiorno. Devo dire che Oscar Giannino aveva i 1,5 capelli che gli sono rimasti, che sono un po' drizzati quando ha letto il tuo commento su Repubblica. A dire già è antipatico che un pensionato ricco approfitti di un sistema legale per pagare meno tasse. Perché è antipatico? Sembra sacrosanto. Cioè. Per Oscar è sacrosanto invece. Vedi Pano Bianco stamattina sul Corriere, gli piace. Insomma, c'è una cosa legittima. Io perché devo pagare di più per pagare in Italia? Ma infatti non è in discussione la legittimità di quella cosa lì, è in discussione l'opportunità. Soprattutto se a farlo, ad approfittarne sono certe categorie che invece, non lo so, magari stanno lì a mettere il dito nell'occhio sempre le cose che non vanno e poi no, come c'è, diciamo, da, i giornalisti, perché tu lo dici, esatto. Ci sono anche tanti giornalisti in pensione che approfittano di questa cosa assolutamente legale per, sì, ma non ti dico, non c'è niente di male, a me non piace, a me personalmente non piace, perché ritengo che, diciamo, se uno fa un mestiere per cui critica le cose che non vanno e soprattutto mette all'indice certi comportamenti, dopodiché che diventi protagonista di quei comportamenti non è che la cosa vada tanto bene, ecco, tutto lì. Però detto che appunto non essendo una cosa illegale, magari il giornalista giustamente... No, ma non è niente illegale, capisci? Allora, le norme internazionali ci sono apposta per dirimere certe questioni. Allora, che tu ti sposti da un paese all'altro dell'Unione Europea, questo non è una cosa, diciamo, riprovevole, assolutamente. Certamente può far discutere il fatto che chi lo fa sia proprio... Cioè, qui è il tema dell'opportunità, no? E anche della credibilità, perché è chiaro che se io svolgo un mestiere... Guardate, questo riguarda... si potrebbe fare lo stesso ragionamento, che so, per i magistrati che scelgono di andare in politica, no? Mm-hmm. Se vogliamo, ci sono delle cose che non sono assolutamente illegali, assolutamente, diciamo, riprovevoli neanche dal punto di vista morale, però forse non sono opportune, ecco. Sì, diciamo, non sono così opportune, va bene, ma infatti siamo, no, qui, no, sono sincero, però non condivido radicalmente e lo dichiaro in amicizia, perché se fai l'esempio del magistrato è evidente il cortocircuito istituzionale, la violazione della separazione dei poteri, qui consentiamo a magistrati di fare i magistrati, fare il politico, tornare a fare i magistrati, e figurati come ti puoi fidare del fatto che sia terzo e autonomo quando torna a fare. Però è interessante, però il dibattito, no, per me è molto interessante, però voglio dire, se io un domani, dopo aver passato una vita a criticare l'Italia, non avverrà, perché sto tentando di convincere mia moglie a andarcene, ma mia moglie ovviamente dice che bisogna morire in Italia. Ma no, non avverrà, nel senso che l'Italia la critichi, me ne andassi da sconfitto, quale sono, minoritario in un paese iperamministrato, ipertassato, ipertutto, solo beni pubblici, che resta con l'Italia di Stato di nuovo, eccetera. Sergio, se tu mi dai anche dell'incoerente, io mi sparo, perché io a quel punto, sai, non è che voglio fare... Oscar, sulle motivazioni per cui tu fai una certa scelta, se la tua motivazione è che te ne vai perché non sopporti il paese, perché sei sconfitto per tante ragioni, è un conto. Se te ne vai per non pagare le tasse, è un altro conto, scusami. No, comunque prendo atto, anche il Sergio Rizzo. Il tema è interessante. Vogliamo salutare anche l'onorevole Enrico Zanetti che ci sta ascoltando, segretario di Scelta Civica, buongiorno, ex sottosegretario. Perché l'onorevole Zanetti ha proposto, se volete, una cosa diversa ma che riguarda sempre lo stesso tema, e cioè un prelievo agevolato al 10% per 15 anni da riservare alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, no? Cioè, quindi lei vuole... sui redditi da pensione, per certo, lei li vuole attirare qui invece i pensionati stranieri, quindi vuole fare cosa, quello che in Portogallo fanno con gli italiani, giusto, essere competitivi, giusto. Ma guardi, è semplicemente un ragionamento pragmatico. Io condivido tutto quello che ho sentito, sia rispetto all'assoluta legittimità di questi comportamenti, sia rispetto in alcuni casi alla loro assoluta incoerenza. Però al di là dei ragionamenti alti e al di là del fatto che per risolvere in modo globale questa situazione, che nel tempo rischierà di diventare paradossale, perché avremo numeri crescenti di pensionati che si spostano da un paese all'altro e poi da quell'altro paese a un altro ancora, man mano che proliferanno le norme di agevolazione fiscale. Quindi nelle more di una risoluzione che però deve avvenire sul quadro internazionale, perché le convenzioni contro le doppie imposizioni si inseriscono in un contesto di schemi normativi e giuridici che poi si riproducono in tutte le diverse convenzioni, quindi non sono questioni bilaterali, sono questioni multilaterali. Nelle more di tutto questo abbiamo due possibilità: non fare nulla e avere nel tempo crescenti flussi in uscita che determinano non solo minori entrate fiscali ma evidentemente anche minori consumi sul territorio, oppure dire a questo punto nel frattempo facciamolo anche noi. È chiaro che, siccome oltre all'aspetto fiscale in questi trasferimenti conta anche una logica legata al costo della vita, dubito che noi attireremo pensionati portoghesi, ma è molto probabile invece che attireremo pensionati con redditi medio-alti del nord Europa, determinando a venire a vivere qui. Non solo dei contenuti in cassi che altrimenti non avremmo, ma anche evidentemente un bel movimento sul mercato immobiliare, perché avremmo... E dei consumi, un rilancio dei consumi anche, rilanciare. Certo, esattamente. Certo, esattamente. Magari la terza età consumano un po' meno rispetto, però... Comunque già ci sarebbero delle entrate, infatti io non propongo lo 0%, ma propongo un 10%, cioè anche perché per rendere la cosa profittevole, ripeto, ai redditi medio-alti piuttosto... che a quelli bassissimi, anche per un minimo di equità, posto che almeno col 10% si rende la norma neutrale rispetto ai nostri pensionati nazionali con pensioni fino a circa 18.000 euro lordi. No, perché ricordiamolo, il Portogallo, Sergio, noi ne abbiamo fatto una trasmissione, abbiamo ospitato anche una persona, Rosario Fazio, che è responsabile di questo portale vadovia.it, aiuta proprio i pensionati ad andare all'estero. Il Portogallo ha deciso di mettere 0% per 10 anni, cioè se uno va in Portogallo da pensionato ha tutta la pensione con lordo, tutto proprio, no? Diciamo con chiarezza che i pensionati portoghesi nel frattempo le loro tasse le pagano, no? Questo sì, per certo, chiarire, certo, rispetto alla critica di chi dice se noi mettiamo questa norma poi però i nostri pensionati pagano e quelli che arrivano dall'estero no. No, è chiaro, uguale, è chiaro, non è sì, il Portogallo lo fa solo per attrarre gli stranieri, esatto, i portoghesi pagano tutto, per cui creando Sergio Rizzo si crea anche questo, sì, questo sana cosa, magari a Sergio non piace, ma sto scoprendo che Sergio è diventato un idolatro delle tasse, no. Mentre io no, quindi è sana questo meccanismo, il fatto che la gente reagisca è come sarebbe, come la flat tax in Italia l'abbiamo introdotta per i ricconi qua, perché basta che ci diano 100.000 euro quelli che vengono da fuori, e 100.000 euro possono anche avere 20 milioni di reddito l'anno e lo Stato va bene. E la gente che protesta in Italia, infatti dico, certo, infatti ci vuole la flat tax anche in Italia, appunto, e così via. Cioè, come si smonta un ordinamento solo incrementale nella pressione fiscale, senza utilizzare anche la sana concorrenza al ribasso? Bisogna farlo, visto che dal punto di vista delle proposte aperte non ci si riesce mai, perché la politica prevale, spacciando per sacro un prelievo rapinoso. E allora tutte queste cose secondo me servono anche, cioè io non lo vivo la cosa, dice, ti sottrai al sacro dono della fede d'oro alla patria. Non so, Sergio, tu che ne pensi di questa idea di fare come loro, no? Attrarli da qui? Allora, intanto il discorso sulla concorrenza fiscale è sacrosanto, perché bisognerebbe farlo anche sugli investimenti esteri, che per esempio noi non abbiamo mai fatto, ma cioè, la fiscalità di vantaggio è una cosa fondamentale per adesso, qualcosa l'Irlanda, cioè ci sono dei paesi che hanno fatto la loro ricchezza sulla concorrenza fiscale. Se le multinazionali sparisce una fetta di PIL così grande. Non c'è dubbio, io ne faccio soltanto una questione di opportunità. Là ci sono, secondo me, io non lo farei per esempio, no, io sto sempre lì a sottolineare le cose che non vanno, quelli che non pagano le tasse, quelli che invece fanno i furbetti, dopodiché faccio il furbetto anch'io. Ma non è far furbetto, però vabbè. Per me non lo è. No, è la contestazione se è essere furbetto o no, perché uno... Il furbetto è uno che le aggira, le manipola, le interpreta per gli amici le norme. Non te lo devo dire a te, è tutta una vita che impariamo da te gli esempi. Insomma, vedi che però questo qui è un problema, non è un problema secondario, no? No, hai ragione. Questo aspetto... Non è un aspetto, poi ognuno la vive come vuole, ripeto, niente è illegale, tutto perfettamente legittimo, per carità, però certamente ti fa riflettere, no? Se un signore che guadagna, che ha una pensione lorda di 20.000 euro, e Dio solo sa quanti giornalisti hanno una pensione simile, va bene, decide a un certo punto di non pagare un euro di tasse nel suo paese, no, per approfittare di questa fiscalità di vantaggio, avendo fatto un mestiere che sostanzialmente, ma chissà quante inchieste avrà fatto, no? C'è certi personaggi che si sono trasferiti magari in Portogallo, avranno diretto giornali che hanno fatto inchieste, capito, sui furbetti delle tasse. Dopodiché vanno anche loro ad approfittare di queste cose. Ma sinceramente sempre rispetto su questa, ma su questo aspetto, cioè messo sulla questione la categoria magari di persone che predicano bene, razzolano male, e la traduco con un detto per capirci, non so, però lei, onorevole Zanetti, come considera un pensionato, adesso al di là del giornalista, un pensionato qualsiasi che a un certo punto dice, ma sapete, io perché devo pagare le tasse, vado in Portogallo, tra l'altro trasferendomi, quindi residenza, 6 mesi e un giorno deve vivere in Portogallo, è un furbetto al di là della legalità, abbiamo detto che è tutto legale, ma secondo lei fa un po' il furbetto oppure no, Zanetti? Guardi, innanzitutto distinguerei tra il pensionato che magari invece di pensione ha 15-20 mila euro e va in Portogallo sia per avere un piccolo vantaggio fiscale, perché già in Italia in quel caso chiaramente ne paga, ma non una cifra enorme, e abbinarsi anche un vantaggio legato al minor costo della vita. Invece a pensioni elevate, quindi tutto sommato in Italia potrebbe vivere più che dignitosamente e cerca di sfruttare al massimo questa normativa andandoci, chiaramente lascia un pochino più perplessi. Detto questo, però, lo si può definire furbetto solo nella misura in cui trasferisce in modo fittizio la residenza e non sta poi davvero almeno la maggior parte dell'anno lì. Chiariamo che uno lo fa in maniera lì, certo. Onestamente non gli si può proprio dire niente, fa una scelta anche di vita che non è neanche semplice per sfruttare un'opportunità, ma si porta a casa anche gli svantaggi, cioè lasciare l'Italia dove è nato, cresciuto, dove comunque sradicarsi, si certo vive facile. Bene, quindi furbetto se non ci sta, diciamo, realmente, se si adegua alla configurazione normativa non si può definire così, a metterci un giudizio morale. Sono più interessato anche da, diciamo, in questo momento esponente politico, sono più interessato a trovare un modo per evitare che l'Italia continui nei prossimi anni a ritrovarsi semplicemente passiva, esatto, e penalizzata solo a esportare e non a importare, esatto, in questo, esatto, caso è il calcio, è il periodo del calcio mercato, quindi loro prendono i nostri e noi loro, eh. Andrea da Treviso ci chiama. Guarda, sentiamo, che la tua squadra sta rimettendosi in piedi è un momento in cui penso sono riferito sempre al calcio mercato, scherzo ovviamente. Andrea da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie a Radio 24. Che dice lei? Allora qua stiamo parlando di non un problema, questa è una vergogna di un paese veramente che collasso. Questo è un problema che si deve risolvere immediatamente con non una tassa del 10% sulle pensioni all'estero, ma anche del 20%, magari forse del 50% addirittura di uno stabiliti prima di me. Perché questo qua hanno creato dei disastri questo paese, noi parliamo come comitati Palma della giustizia, è collasso perché non ci sono soldi, sì. Noi dobbiamo sopportare mille peripezie ogni giorno per andare avanti, questi qua mangiano ostriche sulle ma questi qua chi? Cioè il pensionato che va in Portogallo? Questi che hanno pensioni di 2.000-3.000 euro vanno all'estero, questi qua devono ringraziare il paese, sono stati tenuti, anche baby pensionati sono stati tenuti con l'oro in mano per anni e anni, gente che ha lavorato 20 quindi anni. Quindi lei dice anche solo l'idea che vadano addirittura in un paese dove è tutto defiscalizzato la fa proprio imbestialire, no? Esatto, stanno parlando di 70 anni di mandare la pensione anche a lavorato, gente che ha lavorato in fabbrica, su catene di montaggio, ma qua stiamo parlando di un altro mondo, siamo fuori dalla realtà. Va bene, Andrea, grazie. Oscar, su questi argomenti lo vedevo sbuffante. No, io non in accordo. Pochi con più di me fanno polemica sistematica per il ricalcolo contributivo delle pensioni retributive. Detto tutto questo, in un paese in cui, ecco, qui la penso come totalmente, che tutti sperano di andare in pensione il più presto possibile, poi tutti pronti a dire riguardo agli altri non me, però il motivo per il quale i partiti continuano a spendere fior di miliardi per prepensionarvi, a girare la legge Fornero, che vi dipingono come diavolo dimenticando il contributo che ha dato a stabilizzare il sistema, dipende dal fatto che a voi piace molto in realtà l'idea di andare in pensione di nuovo prima, cari italiani in ascolto. Eh sì, questo invece sapete che Oscar vuole fare lo stile giapponese, dove vogliono mettere la pensione, l'età pensionabile a 85 anni, lui ambirebbe a questo. Pensione mai, sì. Pensione mai, l'orizzonte è più o meno pensione mai. Partito pensione la pensione mai. Appartiene a quando avremo tutti una posizione orizzontale, quella permanente. Marco da Napoli, buongiorno. Anzi no, Marco, abbia una cortesia, dobbiamo andare 2 minuti in pubblicità, poi riprendiamo, da Marco da Napoli, siamo con l'onorevole Zanetti, con Sergio Izzo, vice direttore di Repubblica, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, sai che Oscar, quando ho intervistato anche per La Verità poi questo Rosario Fazio, mi ha detto che ci sono anche dei notai che si sono rivolti a lui per dire voglio andare a vivere. Beh, ma ci saranno di tutti i tipi. Sì, come ha detto i piloti, ex piloti all'Italia. Un notaio, e uno dice, lo so che fa ridere, ma un notaio che guadagnava, che ne so, 20.000 euro al mese, faccio una cifra così, e aveva un tenore di vita per 20.000 euro al mese, esatto, 30.000, non so, e si ritrova in pensione con 5-6.000 euro, magari non riesce a mantenere i suoi 4 mutui, 2 barche, 3 macchine, e quindi vuole andare dove si pagano meno tasse. Ma non ci dai, ma no, ma vedi, vedi, siete forti, allora, cioè, ma dal punto di vista legale nulla, come c'è. Niente da fare, cioè, siete è un'altra forma straordinaria di successo di uno dei più grandi impostori della storia, perché lo Stato, cioè, è questa roba qui. Ma, no, ma certo, lo Stato straordinario, perché voi lo dite con questa sublime, ma no, ma io dico non riesci più a mantenerti 5 case, mi dispiace, e ne venderai 2, cioè, ma mica ti obbligo, se ce la fai con la pensione a mantenerne 5, beato te, se no ne venderai 2, comunque, no? Per carità, o 3, non muto di una virgola la mia stima in peritura per Sergio Rizzo da questo punto di vista, ci mancherebbe altro. Noto però che queste sono questioni in cui emerge quello che poi davvero uno pensa. Questa questione dell'obbligo fiscale, come avete capito, c'è, ed è chiaro che è così con le tasse, non c'è solo una questione di legge, di rispetto di legge, ma c'è un connotato morale, perché ciascuno di noi, lega o non lega, ha la forma del dovere fiscale, una specie di dobbiamo con la nostra comunità riconoscere. Ma io nei confronti per esempio del notaio, io non lo giudico, proprio perché se uno fa le cose dal punto di vista legale, per me può fare tutto quello che vuole. Però posso dare, come dire, sì, un mio giudizio, dico fai quello che vuoi, ma puoi anche vendere di 5 case 2 e stare in Italia e mantenere però apprezzo che Sergio almeno dica in maniera aperta che per lui è gente che ragiona come lui. Lui però, a differenza di tanti, lo ammette, in questo secondo me è come sempre coerente, limpido, dice per me è una questione di opportunità, se un giornalista critica tutta la vita e poi non può però andare, a quel punto per me è un po' inopportuno che se ne va approfittando di una cosa pur legale. C'era Marco da Napoli e la ringrazio per la pazienza, buongiorno ascoltatori, ecco Marco, siamo da lì. Buongiorno a tutti. No, volevo spostare l'attenzione sul fatto, non più che sulle scelte individuali, sul fatto che le differenze dei sistemi fiscali europei, che non ci dovrebbero essere. Ma perché non ci dovrebbero essere? Altra cosa. Le chiedo, mi spieghi, non è mica una critica, perché? No, cioè, perché se l'Europa ci impone delle regole, come dobbiamo produrre, come dobbiamo lavorare, i nostri standard, è chiaro che imponendoci delle regole, che quindi non possiamo scegliere. Ma questa cosa le abbiamo scelte sempre noi, ma perché dite? Cioè, questa storia che ci hanno conquistato e elevato i diritti, quando è avvenuta? Come quando è avvenuta? Le norme fiscali, le nostre, tutte le direttive europee che sono state recepite, che se non vengono recepite dall'Europa ci fanno le multe a cominciare. Scusi, c'è un'unica imposta su cui dobbiamo chiedere permesso ed è l'IVA, l'imposta comunitaria. Per il resto gli ordinamenti fiscali sono nazionali. Dove le viene l'idea che ci vengono imposti dall'Europa? Vedi, sta dicendo quello che dico io. Dato che sono sistemi fiscali che ognuno sceglie le proprie aliquote, io dico non possono essere differenti se poi alla fine le regole da rispettare in Europa sono le stesse. Se tutti dobbiamo produrre le macchine con l'airbag, dobbiamo avere... Cioè lei vorrebbe anche una uniformità fiscale europea. Assolutamente, perché sennò non è giusto. E dice così si toglierebbe anche l'argomento del ma certo, assolutamente. A parte che guardi, per esempio, anche ci sono... Guardate che i paesi, perché tutti guardano l'Unione Europea, ma i paesi con cui abbiamo questi trattati bilaterali sono un centinaio in tutto il mondo. Cioè, ci sono pensionati che vanno in Costa Rica, che vanno in Tunisia, che vanno... Sì, vabbè, poi questa storia sa perché non avviene e non avverrà? Perché cosa succede? Questa cosa è invocata dai paesi ad alta pressione fiscale. Capisco che lo facciano i governi, meno che lo fa il contribuente come lei, perché in nome dell'armonizzazione dice così la piantiamo con i paesi che riescono a crescere magari più di noi con meno imposte di noi, perché è chiaro, brucia l'Italia il fatto di che ad alcuni come me appaia chiaro che è da rapina il fisco, non è giustificato. E allora si chiede l'armonizzazione, i paesi a più bassa imposizione dicono e io dovrei armonizzare al più alto tasso, manco morto. Quindi per questo non avviene, perché i paesi con meno tasse, che crescono più di noi, più intelligentemente di noi, dicono: devo ammortizzarmi e far crescere aliquote come quelle italiane. Neanche morto. Viva che esistano loro, e viva l'Irlanda per quello che mi ringrazio. C'è Francesco da Roma, buongiorno. Sì, Francesco, ci sente? No, ma noi no, però lei ci sente, ma noi dove è finito? In un tornado di quelli pronto, che... Pronto, mi sentite? Adesso sì, Francesco, bene. Ecco. Ah. Mi sono fermato. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, che è veramente molto interessante e pagata. Volevo fare un intervento sul discorso delle persone che si trasferiscono all'estero per non pagare le tasse sulla pensione. Le pensioni. Sì. Io condivido pienamente, perché secondo me noi abbiamo pagato le tasse durante il nostro periodo lavorativo, avendo un sistema di le pensioni in questo momento sono di tipo contributivo, cioè mi ridanno indietro i soldi che io ho versato durante il mio attività lavorativa. Pagare nuovamente le tasse, secondo me, è un qualche cosa di pago le tasse su qualcosa su cui ho già pagato le tasse. Adesso Oscar ci deve dire. Sì, perché poi le risponderà per la credo 1500esima volta su questa storia del abbiamo versato. Il concetto è un altro. Sì. Se tu stai in pensione non devi lavorare, per cui fare il cumulo della pensione con redditi da lavoro che possono essere consulenze, altre attività e compagnia cantando, non è assolutamente serio. O stai in pensione e ti riprendi indietro quello che hai versato nella tua vita, come se te li avessi messi in banca e ti li ridanno indietro. Ecco. Che è questo il punto sul quale, cioè, Oscar... quale lei, come tutti, sono convinti, ma non è vero, è chiaro che non è vero. Cioè, noi siamo in un sistema a ripartizione, non l'assegno, anche quello con la formula pienamente contributiva di chi non ha 18 di contributo alla riforma Dini, l'assegno pensionale della pensione che incasserà non è ciò che ha versato come contributi, investito e accresciuto il patrimonio, no, è semplicemente mese per mese ciò che viene con un giro cassa da chi paga i contributi mese per mese. Quindi purtroppo siamo in un sistema contributivo, lavora, ma non a capitalizzazione, ma a ripartizione. Chi lavora, mentre paga, siete chi tutti pensione. Convinti che c'è il vostro tesoretto che vi viene restituito. Non c'è il vostro tesoretto. Tra l'altro è stato mangiato da quel dì il vostro tesoretto. Tra l'altro non ho capito il principio per cui se uno va in pensione non dovrebbe più pagare le tasse, no, secondo Francesco. Il nostro ascoltatore in questo in teoria ha ragione, dice se è un reddito accantonato. Io sul reddito ho pagato di anno in anno le imposte, se resta a me non devo pagare il bis, ma infatti il problema è che non è il tuo versamento che però ti torna. Se il principio delle imposte, poi so che dirai non è così, ma se il principio è pagare i servizi, poi un pensionato che va, come dire, avanti 20 anni, 25 anni a vivere e si ammalerà, avrà bisogno o chiamerà la polizia, chiamerà i vigili del fuoco, queste cose vanno pagate, perché non si può sapere quanto vivrà in pensione, no? Magari vivrà un anno e avrebbe già con questo discorso accantonato dei soldi, ma se vivesse 40 anni noi dobbiamo andare avanti con gli ospedali. Tanto hai ragione che infatti secondo me i servizi bisognerebbe pagarlo con ticket ad hoc in cambio del servizio, non con la fiscalità generale, ma questo è un discorso lungo. C'è Fabrizio da Prato, buongiorno Fabrizio. Buongiorno, volevo portare la mia conoscenza. Io ho una piccola azienda in Bulgaria, a Varna, sul Mar Morto. Sì. Sul Mar Nero. E Mar Morto sera... da un'altra parte. In Israele, Mar Nero. E una sera a un bar vicino al mio albergo, una comunella di italiani, mi sono aggiunto, e tutti nel parlare hanno detto la stessa cosa. Loro sono emigrati lì perché prendono dai 700 ai 1000 euro al mese e non campano, mentre in Bulgaria, che è Europa anche se non ha l'euro, non hanno più di 250 euro di affitto al mese, vanno a un ristorante con 8 euro, McDonald's, qui da noi 10 euro, 3,50 per le stesse pietanze. Io nel mio albergo 5 stelle col casinò 30 euro a notte. E soprattutto avranno una defiscalizzazione, cioè di quei, invece che gli 800 euro in Italia le rimarranno 1.300-1.400, immagino, no? Di pensione. 950.000, non più di tanto, però con 1.000 euro qui da noi non campi, con 1.000 euro lì hai una vita dignitosa, in uno stato che è dignitoso, pulito, una delinquenza normale, cioè puoi vivere. Esatto. Una casa costa 25.000 euro, cioè puoi vivere. Sono io penso che questa testimonianza di assoluta realtà e buon senso vada apprezzata. Ma perché la maggior parte poi sono cioè, l'Italia è una rapina organizzata in forma di stato etico, e quindi non possiamo pensare di bollare come furbetti chi tenta di vivere dignitosamente altrove, perché altrove invece queste condizioni vengono garantite. Sentiamo Enzo da Bologna. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Ascolti, buona giornata intanto a tutti. Sì, anche a lei. Io vi devo ringraziare perché io sono una persona ignorante e mi aiutate a migliorare la mia cultura. Non ci mancherebbe, grazie. Sono quasi sempre d'accordo col signor Giannino, però su una cosa non riesco a essere d'accordo. Non riesco a capire come lui, cioè, che è sempre preciso, in questo, nel caso delle pensioni non riesce a dividere le situazioni diverse. Io faccio da 35 anni il camionista, faccio 12 ore al giorno, sono tutto rotto, ho due ernie, le cuffie dei rotatori rotte, trasporto carburanti. Solidarietà, perché è una vita pesante. Ho 58 anni, dovevo andare in pensione fra due anni con 40 anni di lavoro a 60 anni. Ci dovrei andare, se non mi aumentano ancora, a 64 anni. Lei capisce che se a me mi prende un colpo di sonno mentre adesso sono sulla strada, sulla Brennero, trasporto della benzina, se a me mi viene un colpo di sonno io faccio un macello. Io, nel mio lavoro devo essere non al 90%, devo essere al 100%. I paesi che, diciamo, dovrebbero essere nell'Europa, perché noi non siamo nell'Europa, la Germania o la Francia, almeno l'ho sentito dalla vostra radio, la Francia manda quelli che fanno il mio lavoro in pensione a 57 anni. La Germania ha 59 anni. Noi ci dobbiamo adeguare solo per le cose negative, ma per le cose positive non ci dobbiamo adeguare. No, guardi, aspetti. Cosa devo fare? Io, cioè, le spiego perché. Le spiego perché, ma si figuri, se uno che fa il suo lavoro per tanti anni non la vuole lavorare, avrebbe smesso, non l'avrebbe mai fatto, mi è chiaro. Però non confondiamo i lavori usuranti, in cui le caratteristiche sono quelle da lei richiamate, col fatto che nel nostro paese in realtà riguarda tutti, è generale la voglia di continuare ad avere un'età pensionabile, non coerente né con le aspettative di vita che aumentano né con l'equilibrio del sistema. E il sindacato chiede che il lavoro usurante sia considerato quello di chi fa il frontale nella pubblica amministrazione, e dovrebbe sorgere anche lei, perché capisce, un impiegato amministrativo che sta all'ufficio delle poste non fa il suo mestiere. Ecco, invece io mi sento dire che è così. Allora, nel suo caso siamo in una categoria straordinaria, cioè, ripeto, si chiamano usuranti apposta e hanno le deroghe apposta. E dovrebbero avere di più al crescere verso i 70 anni, certo, perché è ovvio che sì, che non siamo così matti da chiedere miracoli a mettere a rischio la sicurezza, ma non riguarda il ragionamento generale. Comunque la ringraziamo Enzo, dobbiamo andare al giornale radio, poi riprendiamo da quella che si chiamava Mafia Capitale, adesso non sappiamo più come chiamare, però insomma quello che è successo, il primo le condanne in primo grado, Carminati, Buzzi, e state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, sono le 9 e 8 minuti, andiamo in onda fino alle 9 e 30, come sapete. Guarda quanti ascoltatori ancora ci chiamano. Perché sono il tema è caldo, la gente che vuole... Del resto, a tutti quelli che non muoiono troppo giovani, l'aspettativa invece avanza, si pongono il problema. C'è Silvia da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci Silvia. Chiamo da Firenze. Sì. Allora, io ho pensato da un paio d'anni a questa parte di trasferirmi in Portogallo, quando andrò forse in pensione. Bene. Ho cominciato a 17 anni a lavorare, quindi io pensavo nella mia mente che a 58 anni ero libera. Invece no, invece perché la Fornero mi ha bloccato. Vabbè. Ora però mi hanno detto anche, non so se è vero, le notizie sono sempre molto così, che chi è come me dipendente pubblico, questa cosa, la convenzione con Portogallo, certo, non c'è. Cara Silvia, sì, glielo ecco, confermiamo, vale, perfetto, vale solo per i dipendenti privati, questa è una cosa importante, ecco. Però attenzione, in Tunisia... Perché dipende dagli accordi bilaterali, sì, di divieto di doppia imposizione, che, virgola, nei paesi che poi hanno regimi speciali sono ancora più ristretti. Comunque sul sito INPS dipende se lei poi è stata INPDAP, INPS eccetera, comunque l'INPDAP è stato accorpato, è accorpato, troverà se fa una ricerca sul portale dell'INPS l'elenco dei paesi che hanno la convenzione praticamente quelli solo pubblici, la Tunisia, ecco, Tunisia. E la domanda come perché? Mai la Tunisia? Perché Bettino Craxi in anni storici con la Tunisia disse ai pensionati pubblici io penso che può essere interessante, però è anche vero Silvia che molti dipendenti pubblici nella sua situazione hanno fatto dei ricorsi giudicando discriminatoria questa cosa, andando proprio alla Corte di Strasburgo, Corte Europea, eccetera, dicendo è sbagliato, però sa finché quanto dura la giustizia anche internazionale. E poi incerta resta. A oggi resta così. Quindi solo a oggi per i dipendenti lei privati. Vada a vedere nell'elenco dei paesi in cui c'è la convenzione IMSS-INPDAP. Quello che le possiamo dire è che la Tunisia e non molti altri, mentre invece negli altri, nel caso del generale delle pensioni INPS private eccetera eccetera, sono molti di più. Sono un centinaio di paesi. E però Silvia giustamente con questa domanda ci ha posto, insomma, ci ha fatto chiarire e ha fatto bene. E sì, per i dipendenti pubblici praticamente però vedi ovunque che la gente non giustamente vale, pianifica. Non vale. Certo. C'è Mario da Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, buongiorno Giannino. Niente, io volevo solo testimoniare la mia esperienza. Io sono andato in pensione l'autunno scorso, avevo già iniziato tutte le pratiche per avere residenza in Portogallo, l'ho ottenuta, l'ho avuta eccetera, e volevo solo dire che con quello che io risparmio eccetera riesco a dare io a due figli che stanno continuando ovviamente a stare in Italia, a lavorare in Italia eccetera, riesco a dare circa 900 euro al mese a figlio, e questo aiuta ovviamente loro a vivere. Uno lavora, lei lavora come impiegata, lui sta facendo pratica presso uno studio legale, potete immaginare qual è il suo compenso in questa situazione, e quindi questi soldi vengono poi spesi. No, ma non si preoccupi, guardi, non è qui lo sportello di coloro che la considerano un traditore dell'Italia, guardi, nel senso che giustamente Mario ci racconta quello che è il motivo per cui forse il 90% dei pensionati che fanno questa scelta la fanno, cioè avere un pochino più di soldi in tasca a fine mese per aiutare molti, appunto il figlio che non ce la fa, pagare gli studi ai figli, cioè tutte cose assolutamente, come dire, normali, giuste, non impedite in Italia da uno Stato che fa la rapina fiscale. Cari difensori del sistema fiscale italiano, difendete una banda, un'associazione a delinquere, questo è. Comunque, allora, caro Oscar, oggi i giornali sono tutti alla ricerca di un nuovo titolo. A proposito di associazione a delinquere. Avere titolato per anni Mafia Capitale, ora non possono più titolare con questa parola Mafia Capitale, perché nella sentenza di primo grado, dopo 240 udienze sull'inchiesta che ha visto coinvolto 46 imputati, è decaduta l'aggravante di mafia, però rimane un sistema di corruzione che in primo grado è stato sancito con 20 anni a Carminati, 19 pene gravissime quelle combinate, durissime. 250 anni più di carcere sommando tutti coloro che... Io posso dire solo una pillola in 3 minuti perché poi sentiamo gli ospiti, però, perché c'è una cosa che mi riguarda per fatto personale, per così dire. Primo, è vero, cioè, ha perso la procura, ha perso Pignatone, perché sulla mafia. Il cardine dell'associazione mafiosa era il cardine su cui sono andati avanti le custodie cautelari, il cardine anche in cui Pignatone, per la sua storia di magistrato da Palermo eccetera, ha tentato in larga scala di dire la mafia non è solo quella tradizionale, ma questa associazione così pervasiva, quella per la corruzione a Roma, che ha dei caratteri di mafiosità, e ha perso. Ok. Secondo, siccome è caduto questo, io credo che in appello molte delle pene durissime davvero forse non reggeranno. Però c'è una terza cosa che io voglio dire: siccome la stragrande maggioranza dei miei amici significa liberali garantisti, oggi stappa lo champagne e sembra che l'unica cosa che a Roma valga è quella della caduta dell'associazione mafiosa. No, ecco, io mi dissocio brutalmente, perché mi sembra che stappare lo champagne perché ha perso la procura sull'associazione mafiosa significa offendere, schiaffeggiare, depredare, umiliare, calpestare Roma ridotta così da 20 anni dai partiti, sì, dicendo no, perché... ma no, ma quella è la, esatto, Roma eterna, esatto, ma che, ma abbiamo scoperto che cosa con questa inchiesta, no, esatto, che a Roma si ruba. Ecco, cari amici liberal garantisti, questa parte che state recitando a me ripugna. No, perché sembra appunto che è decaduta l'accusa di mafia, allora erano bazzeccole quelle che sono state sancite dal Tribunale di Roma. Non è proprio così. C'è con noi Lirio Abate, collega dell'Espresso, autore tra l'altro della lista Ricatto alla Repubblica di Massimo Carminati. Buongiorno, ciao Lirio, e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi. E c'è anche Alfonso Sabella, magistrato a Napoli oggi, ma ex assessore alla legalità di Roma, che abbiamo avuto tante volte ospite, che su questo tema ha battuto proprio, ha visto con mano anche questa corruzione dall'interno. Sabella, buongiorno. Dottor Sabella, buongiorno. Grazie. Ecco, l'impostazione che lei, forse avendo letto i giornali, come diceva adesso Oscar, vede, le piace, cioè, perché molti a dire, anche gli imputati stessi, alcuni ad esultare perché è caduta l'accusa di mafia. Gli imputati escono dal 41 bis, esatto, immediatamente, ed escono perché se avevano la condanna per associazione mafiosa non uscivano subito. Esatto. Sabella, lei che dice di come viene trattata dai giornali? Io sono terrorizzato da questa impostazione, le dico la verità, sono terrorizzato perché... questa sentenza ha dimostrato qualcosa, qua si parla di vittoria o di sconfitta, l'unica sconfitta è Roma in questa vicenda, perché da questa sentenza innanzitutto non era chiamata a dire se c'è la mafia o meno a Roma, che la mafia a Roma c'è, non è, ma semplicemente a dire se, tra le altre cose, se quell'associazione composta da Buzzi e Carminati, dove un'associazione di tipo corruttivo come quella che faceva capo a Buzzi poteva avvalersi, utilizzare quella riserva di violenza costituita dal gruppo Carminati, fosse o meno inquadrabile tecnicamente nel reato di quell'articolo 416 bis. Una questione bellissima sul piano giuridico, sono curiosissimo di leggere le motivazioni, di vedere come andrà a finire, ma da giurista, da cittadino romano, le dico la verità, sono disgustato. Ma sono disgustato perché vedo che c'era un'organizzazione criminale dedita alla corruzione che poteva avvalersi di quella, lo ripeto, riserva di violenza che poteva portare il gruppo Carminati, che ha condizionato la vita pubblica e le istituzioni, che ha messo le mani all'interno del Campidoglio e di altre istituzioni romane, che ha corrotto una serie di funzionari e politici anche di alto livello, almeno relativamente alla vicenda locale, e che dimostra inequivocabilmente la fragilità di una macchina amministrativa, di una macchina istituzionale, di una macchina politica romana rispetto a quelle che sono la forza di un'organizzazione criminale. Cioè, organizzazione criminale la cui esistenza è stata riconosciuta, attenzione. Quindi io sinceramente tutta questa esultanza, io temo che ancora una volta finiremo col dire non è mafia, allora non c'è niente a Roma, allora Roma è una città sana. Io vedo, voi cercavate il titolo, io il titolo che ho dato al mio libro che ho pubblicato era Capitale Infetta. È un titolo che non mi sono inventato io, no, ma che, titolo storico, ma esatto, che risale a 50 anni fa e non è cambiato nulla a Roma, certo, come non credo che sia cambiato, purtroppo devo dire la verità con molta amarezza, non credo che sia cambiato nulla sul piano della robustezza della macchina amministrativa. Guardi, dottor Sabella, lei l'ha vista appunto dall'interno dell'assessore. Ieri il Messaggero titolava che un dirigente su tre a Roma, più il Campidoglio, di un dirigente su tre 190 è sotto indagine, quindi voglio dire, adesso chiamiamo la mafia o no? Il mio libro è un giacuzzo forte contro la burocrazia, perché io ho trovato una burocrazia incapace o corrotta. Io quando sono arrivato in Campidoglio dico sempre mafia, non ne ho sentito l'odore in Campidoglio, ma perché probabilmente se c'erano mafiosi l'avevano già portati via la procura. Ho sentito l'odore fortissimo della corruzione, l'odore delle mazzette traspariva da ogni carta, le dico la verità sulla base della mia esperienza. E dell'altro ieri la notizia che la procura di Roma ha arrestato e sta indagando una decina di persone per fatti che avevo denunciato io guardando semplicemente le carte. Ma perché traspariva? Quando arrivo e trovo 13.000 procedure sotto soglia, procedure negoziate, appunto, affidamenti diretti, appunto, proroghe e 7-8 gare a evidenza pubblica, è fin troppo evidente che là sotto c'è un giro enorme di mazzette. Sì. È da questo giro enorme che dobbiamo liberare i romani. Ma se ancora oggi non si fa la centrale unica di committenza, e ancora abbiamo più di 100 centri di spesa e una cinquantina di stazioni appaltanti solo a Roma, se non si intensificano i controlli sull'assegnazione e sull'affidamento degli appalti e sull'esecuzione degli appalti, se addirittura il protocollo di vigilanza collaborativa che abbiamo fatto stipulare al comune con l'ANAC è stato lasciato decadere, poi il limite l'hanno recuperato, sinceramente mi chiedo io veramente se vuole cambiare questa città o dobbiamo lasciare le cose come stanno e ora esultiamo soltanto perché non c'è la parola mafia, che hanno ritenuto sia quella che quelli tra l'altro non rientra, a me non me ne frega niente che sia matto. No, ma tra l'altro non me ne frega niente. Tra l'altro Lirio Abbate, tra le varie questioni della sentenza, sono stati confiscati, e magari un episodio che può apparire secondario, ma 572.000 euro, rintracciati in contanti dietro una parete di casa di un funzionario dell'ufficio giardino. Turella. Esatto. Lirio Abbate, è un po' questo il sistema che poi è stato scoperchiato, voglio dire, un sistema corruttivo diffuso, no? No, ma il sistema è quello che avete raccontato fino adesso. Il dottor Sabella sa benissimo, voi siete ottimi osservatori, e il sistema, la gente di Roma la conosce, c'è la gente che vive questa corruzione, che la vive sulla propria pelle, e conosce benissimo come vanno le cose a Roma, per cui io penso che di fronte a fatti del genere bisogna stare compatti e fare fronte unico, cioè adesso dipende dalla politica e dalla società civile romana e cominciare a dividere le cose, bianco o nero, decidere da quale parte stare, perché se la magistratura, adesso io non è che voglio vedere la mafia dappertutto, però se riconosce che c'è un'associazione comunque criminale semplice, dichiara un criminale abituale al quale vengono inflitti 20 anni, cioè non sono stati dati nemmeno a Marcello Dell'Utri. 20 anni sono tanti, effettivamente. 20 anni, dico, un'associazione c'era, che si esulti per questo fatto e si dica che tutto è sconfitto, qui appunto è sconfitta Roma, cioè viene messa in evidenza come queste persone riuscirono a mettersi nelle mani la politica, gli imprenditori, l'economia legale inquinandola, e viene fuori una cosa che è veramente orribile, dove adesso è opera dei cittadini e della politica tutta quanta, e sia cominciare a fare, a discendere dal buono e dal cattivo, e cominciare a fare delle scelte, cosa che a Roma non si fa. Sì. E qui la scelta era soltanto pro o contro Carminati. Ieri abbiamo scoperto che c'erano anche giornalisti o politici che facevano il tifo per Carminati, e non per chi cerca di liberare Roma da queste persone che hanno minacciato, intimidito, creato omertà in una città che è capitale d'Italia. Io dico, allora bisogna fare un po' di educazione, cioè bisogna un po' ritornare indietro e dire da quale parte stiamo. Sì. Tra l'altro, dottor Sabella, lei oggi al Corriere della Sera, in un'intervista, ha detto: Roma non è una città mafiosa, ma è molto più corrotta della mafia, è molto di più. No, credo che sia stato un po' esagerato, perché è messa così. No, qualche errore in quell'intervista, si parla di 82 quando è 92, vabbè. È stata un pochino la frenesia. No, dico io, Roma è una città molto più corrotta di quanto sia mafiosa, cioè questo è il dato, questo non significa che la mafia non esiste. Attenzione, per esempio, bisogna valutare una cosa, tutti dimentichiamo per esempio che la Banda della Magliana non è stata qualificata come associazione di tipo mafioso anni fa. Oggi, alla luce di quello che sappiamo sulla Banda della Magliana e alla luce di quella che è stata l'evoluzione giurisprudenziale del fenomeno, io credo che se la stessa vicenda finisse all'esame dei giudici potrebbe avere un esito totalmente diverso e riconoscere che quell'associazione era un'associazione di tipo mafioso. Quello che volevo sostenere io, che Cosa Nostra era un'organizzazione mafiosa, lo sapevamo tutti, ma c'è voluta la sentenza della Cassazione del 30 di gennaio del 92 affinché si venisse messo un sigillo su questa evidenza. Il problema è quindi, altro discorso, veramente non dimentichiamo che a Roma la mafia c'è, basta vedere quello che accade a Ostia. A Ostia ci sono sentenze passate in giudicato ormai che hanno riconosciuto l'esistenza di organizzazioni mafiose su quel territorio, quello che avviene in certe zone di Roma Est dove ci sono pezzi di territorio che sono sotto il controllo di organizzazioni criminali, quello che avviene nel centro di Roma dove abbiamo una marea di ristoranti, di esercizi pubblici che sono stati sequestrati alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra. Quindi la mafia c'è dappertutto, voglio dire. Non dormiamo sugli allori, non sottovalutiamo il fenomeno, non esultiamo perché in un determinato processo, in una questione tecnica molto particolare, perché per la prima volta la sfida della procura è una sfida bellissima, la procura ha cercato di dire, per la prima volta era un unicum mafia capitale, un'organizzazione che non ha il controllo tipico del territorio come avviene per le mafie tradizionali del sud, ha comunque in sé un vincolo associativo talmente forte, crea una condizione di assoggettamento e omertà, che è un po' quello che ha detto Liri Abbate, e quindi, nonostante non abbia il controllo del territorio, va ricondotta giuridicamente sotto il 416 bis, che è una norma che risale all'inizio degli anni Ottanta. Ora, attenzione, cioè, questo è un dato sicuramente importante sul piano giuridico, ne possiamo discutere, ma veramente sul piano... Però Sabella, io posso richiamarla anche, perché questo, insomma, ormai l'abbiamo detto qual è il punto, e siamo tutti d'accordo, veniamo da culture diverse, ma qui siamo totalmente d'accordo. Per questo l'ho voluto premettere, che io da liberale garantista, chi oggi va di champagne mi suscita riprovazione e orrore. Detto questo, c'è anche un'accusa, lo dico a entrambi, politica grande come una casa. Cioè, la cosa politica è stata quella: chi parlava di mafia capitale, chi andava dietro la procura, forse, chissà, la stessa procura, io questo tendo a escluderlo ovviamente, posso criticare i magistrati sui provvedimenti, ma non gli attribuisco intenzioni politiche ex ante, naturalmente usando mafia capitale e la mafia eccetera eccetera, che cosa aveva in mente? Di fare il grande assist su cui i 5 Stelle hanno vinto a Roma. Oggi ci sono titoli così, il bluff di mafia capitale e il bluff grillino sono due pezzi di un'unica grande storia. E diciamo, ad andare dietro a questa interpretazione oggi, a parte un po' di giornali, sono anche pezzi della politica dei vecchi partiti. Allora, io su questo tento proprio dirla chiara. No, perché questa roba che becca 250 anni di condanna in primo grado, vedremo in appello, ma intanto è figlia di 20 anni di tragedia della destra, della sinistra e dei partiti ladroni a Roma. Adesso, se il tentativo di fronte alla sentenza è di dire cancelliamo tutto, beh, due volte errore che mi ripugna, a dire la verità, perché oggi è pieno dei ragionamenti anche di politici, sì, anche della sinistra, tra di questo. Sabella, che è un politico, non è, ma l'ha vissuta a Sabella, lo dico perché siccome lui non fa parte Marino, di questi, però alcuni dicono ecco perché 5 Stelle, no, diciamo che i partiti ne hanno di scuse da dare alla gente prima, Beh, fatemi dire una cosa però, che come assessore della Giunta Marino mi sono battuto come un leone perché Roma non venisse sciolta per mafia, perché ritenevo che la macchina amministrativa romana fosse corrotta, profondamente corrotta, ma non mafiosa. Certo, però non le sarà sfuggito che oggi Ignazio Marino fa proprio una serie di interviste, una alla stampa, a dire mi hanno rottamato come un'auto in divieto di sosta, tra l'altro metafora non proprio felicissima. Beh, Ignazio ha tutte le sue ragioni di questo mondo, gli voglio un bene dell'anima, probabilmente sono stati fatti degli errori durante la sua consigliatura. Io l'errore che contesto a Ignazio Marino, l'unico vero errore che gli contesto, è che se tu arrivi a Roma come marziano, non arrivi con la bicicletta ma arrivi con l'astronave, cioè arrivi blindato, e il problema è che Roma è una macchina burocratica che si mangia tutti e tutto se non si è più che forti e più che blindati per reggere a questa pressione. Vede, voi, lei ricordava il discorso dei 572.000 euro, che ci deve far pensare, perché se noi andiamo a vedere, quei soldi sono stati dati a un semplice funzionario del Dipartimento Ambiente, nemmeno a un politico. Ci fa pensare di quanto fosse pervasiva, ma certo, ha ragione. No, un altro ragionamento: i politici che avevano il libro paga, li pagavano con le briciole. Con le briciole, che con 1.000 euro al mese, cioè 1.000 euro al mese significa praticamente che un politico, un onorevole capitolino, per prendere quello che un semplice funzionario del Dipartimento Ambiente aveva preso in una volta sola, si doveva far corrompere per 40 anni. Ma perché è il funzionario che fa 12 gare in 20 minuti? La politica non conta più niente, sono dei prostituti oramai, dal livello è quello là. Bisogna recuperare la qualità della politica, che è in grado anche, la qualità e l'onestà ovviamente, diamola per scontata, della politica, di incidere sui funzionari, sulla burocrazia. È un grande attacco alla burocrazia romana, che è quello su cui ancora oggi, però, diciamo la verità, non si mette mani. E quando leggiamo che 70 dirigenti sono indagati, per carità, non significa niente, però è abbastanza indicativo. Il numero non significa molto niente, indicativo, ma il numero molto è... indicativo. Comunque, noi dobbiamo ringraziare Alfonso Sabella, magistrato e autore di Capitale Infetta, Lirio Abbate, giornalista dell'Espresso e autore di La Lista, il ricatto alla Repubblica di Massimo Carminati, edito da Rizzoli, che insomma ci hanno regalato questo spaccato insieme a noi, quella che la sentenza è. Ecco, torniamo al grande come no, e la gente che stappa champagne oggi non mi piace, lo ripeto la terza volta, però non mi piace. Vedi che non c'è neanche detto che oggi è venerdì, oddio è venerdì oggi. Sì, oggi è venerdì, tra l'altro La settimana prossima è una settimana anche importante, è l'ultima settimana di 24 mattino di Attenti alle 2, qui poi si va in vacanza. Non è pensione, morte. No, ma noi la affronteremo serenamente. Esatto. Dai, ci sveleremo tutto settimana prossima, che succederà poi nell'immediato futuro. Io vi annuncio anche Milan e la lista del Milan. Non c'è solo il... Sì. Il Gallo del Torino. Io andrò a fare il postino a Milanello, 2 milioni di euro l'anno. Perché miseria, ti faccio dal pisto subito. Smisterò la posta. Va bene. A lunedì, a domani con Oscar, a oggi pomeriggio con Oscar. Ciao.